Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Scusate se è moltissimo tempo che non faccio video, perché sono stata molto impegnata, non ho avuto tempo. Sapete, quando siete alle medie purtroppo siete incasinati da tutti questi compiti, quindi mi dispiace e vi prometto che d'ora in poi farò video più spesso, va bene? Oggi sono qui per dirvi 5 cose che odio, che non sopporto. Iniziamo! La prima cosa che odio, per esempio, quando sto con i miei amici, voglio fargli vedere nuove canzoni che piacciono a me, nuovi video, e all'improvviso ti mandano messaggi a gogo. Io tipo mi scoppio la testa, mi incavolo a morire. La seconda cosa che odio è quando una mia amica non è sincera. Compra you dream. La seconda cosa che odio è quando la mia amica non è sincera con me. Allora, per esempio, odio la falsità. Per esempio, quando io devo dire un segreto a una mia amica e lei dice sì, tranquilla, non lo dico a nessuno, e all'improvviso messaggi che dicono hai fatto quello. Mi capita sempre più spesso di sentire genitori, ma anche insegnanti, che mi dicono: mio figlio, mia figlia, il mio allievo fa lo youtuber e abbiamo svoltato. Mi è capitato un insegnante che mi raccontava dell'ultimo della classe, il più strafottente, il più asino, quello che faceva il personaggio e trascinava tutta la classe nelle sue gag, naturalmente portava tutti la deriva rispetto a quello che era il programma scolastico. Adesso praticamente considerato un intoccabile, perché ha cominciato a fare lo youtuber, ha cominciato a fare le recensioni di videogiochi e guadagna più di suo padre, che è un normale professionista. Sento genitori, padri e madri, che si stracciavano le vesti e i capelli fino a qualche tempo fa perché il loro figlioletto o figlioletta passava le giornate davanti al computer a fare scempiaggini, tipo: ma cosa fa? Ma sta tutto il giorno a farsi video e li mette su YouTube e non studia, non fa niente. Oggi tutti contenti e felici dicono con orgoglio: mio figlio fa lo youtuber. Cos'è lo youtuber? Lo youtuber è un fenomeno nuovo, recente nella sua punta di riconoscimento rispetto al mainstream dei media. Quando Giulio Giorello fa un faccia a faccia, un'intera pagina sul Corriere della Sera con Sofia Viscardi, una youtuber italiana che ha scritto un romanzetto che è in testa a tutte le classifiche, succede, dove racconta quello che le succede ogni giorno. Ma quando uno youtuber racconta la sua giornata, racconta veramente: mi sono svegliato oggi, mi consigliate quale maglietta mettermi, sono andato in classe e è una noia studiare, oppure: amici e amiche, vi racconto oggi la mia fantastica giornata, cala il sole quindi scende la notte. La confezione è la banalità, ma se lo dicessi con quel senso malcelato di invidia, di rabbia, da vecchio rabbioso di ce lo vanno i costumi, non sarei me stesso. È un fenomeno nuovo. Gli youtuber sono emersi da un loro foltissimo pubblico in rete e migliaia e migliaia di ragazze, di fan che li seguono ogni giorno per quello che fanno, hanno creato dei loro leadership, hanno creato i loro caposcuola, le loro tipologie e stanno cominciando ad essere un oggetto di interesse per il mondo comune. Io sono stato 2 settimane fa in Vaticano, in una esclusivissima riunione, il Papa attorno a un tavolo ha radunato i 10 youtuber più famosi del mondo. Ragazzetti tutti uguali, tutti ripuliti lì, tutti genuflessi di fronte al Papa, che magari si fanno i video sulla tazza al gabinetto con un cetriolo in mano e raccontano la loro giornata. Santo Padre, mi dica, questa grande responsabilità che abbiamo verso i giovani, come possiamo farla perché sia una missione di importante, di benessere per la società? Il Papa rispondeva: questo è il fenomeno degli youtuber, per quanto poco ne so, oggi c'è qualcuno che mi insegnerà esattamente di cosa si tratta. Quanto ne sapete voi? Avete un figlio youtuber? Sapete che esattamente non si parlerà d'altro che di questi nella prossima televisione e con quali risultati? A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ok, controllo solo Instagram e poi chiudo. Oh no, eri a seguito altre 2 modelle su Twitter. Oh mio Dio, queste campano d'aria. Sì, di Aria e Dari Styles. Io manco l'aria, ciao. Non gliela faccio proprio. Così va molto meglio. Amore mio, non mi lasciare, stringi la mia mano. Ah, ma se dormo così? Iatto! No, basta, mi tolgo i calzini. Ma che razza di nome è calzini? No. Ok, ci rinuncio. No, non puoi spegnerti. 800 24 0024. Cosa sapete degli youtuber? perché non ci raccontate, se anche voi ponete le vostre attese di successo di vostro figlio su quello che fa smanettando sul computer tutti i giorni. Probabilmente questo non era ciò che si aspettavano, ma oggi non posso essere contenti. I genitori di Greta Menchi, la ragazza che sta parlando e sta raccontando cosa fa di notte una ragazzina. Lo fa in un video, lo mette su YouTube e lo guardano subito migliaia e migliaia di suoi coetanei e tutti rispondono: grande, forte, bellissima, stupenda. Qualcosa che probabilmente non poteva esistere prima, perché non esisteva un canale diretto di confronto, di rappresentazione di quelle che sono anche le banalissime mutazioni dell'adolescenza, i pensieri sciocchi che di solito i ragazzi abbiamo sempre scritto sul nostro diario, sul diario VIT, su quello che tenevamo in casa. Oggi si fanno un video, il video viene condiviso, tutti lo vedono e si comincia a scegliere tra i ragazzi quello che rappresenta meglio il sentire generale dei ragazzi. Lui diventa un dio. Diventa un divo in un primo tempo nel cerchio ristretto delle persone che stanno su YouTube. Il mondo, il vecchio mondo, il mondo dei grandi, il mondo degli uomini, il mondo che produce, il mondo che spende, il mondo che ogni giorno deve immaginare forme nuove per alimentare il cadavere sotto formaldeide della televisione, scopre gli youtuber. E quindi Sofia Viscardi farà un programma con Corrado Augias. La preistoria assieme a ciò che accade dopo il Big Bang, capito? Messi assieme. Augias ha bisogno della formaldeide di mettersi in studio Sofia Viscardi, quindi Augias avrà speranza di continuare a parlare di libri in televisione per altri 20 anni, fino a che non arriverà comunque anche per Sofia Viscardi il momento in cui apparterà al passato. Beh, questo è un fenomeno interessante, invece, un fenomeno da guardare. Abbiamo in studio Giancarlo Liviano d'Arcangelo, buongiorno, che buongiorno. Saluto, un amico che spesso è stato ospite nostro, è uno scrittore ad ampio spettro, ha scritto vari saggi, tra cui Gloria agli eroi del mondo del sogno, il saggiatore dedicato al mondo dello sport, ma ha scritto anche un libro su Mike Bongiorno, sul mistero delle ceneri di Mike Bongiorno, il corpo scomparso di Mike Bongiorno. Non a caso, vedi, il fondatore, il padre fondatore, il grande sacerdote della TV italiana, è scomparso il suo corpo. Ancora non è risorto, non se ne sa nulla di lui, capito? E invece la televisione gli sta rabattando, ritrovando, cercando nell'illusione di ritrovare un nuovo appeal, corteggiando gli youtuber. Tu hai cominciato a studiare questo fenomeno, sei tra i pochi studiosi italiani che lo sta analizzando in maniera concreta. Dammi un tuo giudizio innanzitutto. Ma io credo che innanzitutto che questo fenomeno sia comunque un fenomeno derivativo dalla pubblicità degli anni 80 e 90, che ha creato un vero e proprio immaginario, soprattutto anche da quello dei cartoni animati degli anni 80 e 90, che ha... Ecco, dimmi perché devo capire. Descriviamo cosa accade. Lo youtuber nella sua cameretta, di solito, con attrezzature, diciamo, consumer, ma di qualità, perché i video sono perfetti, ormai li montano, hanno tempo e software per farli, racconta dei momenti banali facendoli divertente, lo stupito, molte volte anche fanno le recensioni dei videogiochi, recensioni dei film, le ragazze insegnano come truccarsi, ognuno c'ha il suo settore. Sì, diciamo che appunto il fattore che poi riguarda ciascuno di essi è che si prova a fare community, rappresentando questa community intorno alla figura centrale di un modello che è appunto lo youtuber. All'interno di queste community appunto gli utenti possono avvicinarsi perché si ritrovano in un mondo loro molto familiare, perché una delle cose secondo me più interessanti che riguarda appunto il fenomeno degli youtuber è il fatto che i loro contenuti siano dei contenuti assolutamente quotidiani, assolutamente si possono considerare come un puro parlericcio di quello che fanno durante la giornata. È una confezione del quotidiano, sì, poi le loro giornate non è che sono molto diverse l'una dall'altra, quindi sì. È un reiterare continuamente quello che accade. Certo, quindi le loro idee sulla vita, ciò che raccontano, anche il loro modo di parlare è un modo di parlare completamente derivativo e soprattutto tautologico. Raccontano che, ad esempio, che quello che possono odiare, le 5 cose che odio sono per esempio il fatto che viene una persona e mi disturba, cioè tutte cose chiaramente da autologiche. Vedi, è già una classificazione del sapere tipica dei social network. Assolutamente. Tra i video virali, quelli che poi ti becchi anche i virus magari, le 10 cose che dovete sapere se dovete sedurre una donna, le 5 cose perché non vi puzzano i piedi, è sempre diviso con una serie di categorie che esprimono un concetto e realizzano la soluzione di un problema. Naturalmente, perché uno dei principi chiave di questa forma di comunicazione è la semplificazione. La semplificazione totale attraverso il gergo che ritorna continuamente attraverso una prosemica che è perfettamente iconica. Diciamo, quelli che hanno maggior successo e che poi sono iniziano a essere seguiti dalle agenzie. Tu stai trattando il problema come se fosse un vero fenomeno sociologico. Lo è assolutamente, perché dal mio punto di vista non se ne sono resi conto tutti. È la televisione più paracula, dice prendiamo gli youtuber che hanno successo su YouTube, ma trasportati in televisione hanno lo stesso successo? Ma dal mio punto di vista no, e non credo che sarà tanto facile. Ad esempio, succede molto spesso che quando vengono scelti come testimonial per serate inaugurali di film, anche nelle fasce di target perfettamente aderenti al loro modello, succede che le persone che poi si presentano magari alle premiere oppure alle prime serate non cercano minimamente interesse per il film, ma cercano semplicemente il contatto con il loro idolo, con il loro modello. Io ho visto Greta Menchi scanzonata, divertita, trasgressiva, davanti al Papa sembrava un'educanda alla festa della Madre Superiora, tutta vestita di nero a testa bassa. Beh, Santo come? Padre, questa missione che abbiamo di salvezza, cioè dico, ma è sempre la stessa persona. Sì, perché anche qui questo è un altro aspetto secondo me veramente interessante. Teniamo conto che la matrice insomma di questo successo, che poi nasce magari in qualche momento da fenomeni di spontaneità, ma poi ovviamente è come tutto quello che riguarda poi giri di denaro molto forti, riguarda poi delle agenzie che li prendono, li selezionano come se fossero dei veri talent scout di calciatori, e poi appunto migliorano il loro apparato tecnico, migliorano il loro apparato scenografico, migliorano il loro lo sviluppo dei loro contenuti, e questo significa che naturalmente li adattano di volta in volta al tipo di merce, al tipo di prodotto che devono pubblicizzare. Diciamo, il vero cambio di qualità è stato quando il mercato si è accorto degli youtuber, cioè facendo contatti, e ha cominciato a investirci. Il ragazzo, dicevo prima, che posso anche dirlo, mi sembra che sia di Modena, che era un normale discolo scolastico, sta facendo soldi, la famiglia ha una risorsa, il ragazzo fa le recensioni ai videogiochi. 800240024, stanno arrivando le prime testimonianze. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Niente, io chiamo non tanto perché mio figlio manda video su YouTube, ma perché è un assiduo utente di YouTube, insomma. E però ancora non porta un soldo a casa, è solo una rimessa. No, non è quello il problema è che non porta soldo a casa, il problema è che è quasi una calamita per lui vedere questi filmati di YouTube, questo Fabi J che fa le telecronache, perché io ero un po' preoccupato. No, descrivale dal suo punto di vista, qual è l'eroe di suo figlio? Fabi J. È un ragazzo che vive a Torino, adesso mi sembra si è trasferito da Milano a Torino o viceversa, non ho capito bene, e fa le telecronache dei videogiochi. E sinceramente ho provato a guardare insieme a lui alcune cose, poi in questi filmati ormai si vedono anche i genitori, come diceva lei proprio, no? I genitori contenti, perché alla fine sono i genitori, sono contenti del figlio che fa, che sta. Io gli ho detto, ma sta tutto il giorno sul computer sto qua, perché sono questi ragazzi tutto il giorno. Per partecipare a un evento chiedono 5.000 euro come minimo, quindi ma io poi ho visto visualizzazioni, più di 2 milioni di visualizzazioni, ho detto ma chi è, ma come, io pensavo fosse solo mio figlio, perché a un certo punto me ne intendo un po' di informatica, non è che sono così sprovveduto, io più che altro mi chiedo che cosa ci trova suo figlio, glielo dice cosa ci trova, ma glielo racconta suo figlio cosa ci trova? No, mio figlio, no, a parte mio figlio che ha alcune problematiche, alcuni tratti di aspetto di autismo, e quello che io... Vabbè, non è che saranno 13 milioni di autistici. No, ma io che mi guarda questo, lui vede un amico in Fabi J, vede un amico che in strada vede dappertutto, insomma, no? Lui con questo Fabi J lo mette dappertutto. Quindi è il suo idolo. Mentre manda, pensa a Fabi J, è il suo idolo, Fabi J. Quello che ci trova non lo capisco, non riesco, io gli ho chiesto, mi piace, perché gli piace come descrive anche mio nonno dice, non capisco cosa ci trovi in quegli orribili cartoni animati giapponesi, capito? C'è sempre una generazione. Usano un linguaggio da strada, che è un attimo un po' volgare, ma è quel linguaggio da strada che si usa normalmente, e forse è quello che attrae un attimo, no? Questo linguaggio un po', ma che cazzo fa? No, cazzo, mi sto cadendo giù. Ecco, si è autobippato addirittura. Fa la descrizione del gioco, che è quasi un linguaggio da strada. Il linguaggio parlano i ragazzi, la strada. Oggi la strada non è più che una volta, la strada era quella dove c'erano si tiravano le sassate. Oggi la strada è il cortile davanti alla scuola, è l'attesa alla metropolitana, è la piazzetta, oggi si vede. È anche il linguaggio che parlano i genitori, che parlano le madri, che parlano i padri. Francesco. Pronto? Sì. Sì, ma ricollegandomi un po' a quello che diceva l'ascoltatore prima, vorrei dire che a mio avviso questo boom di YouTube, più che altro boom di ragazzini che guardano YouTube, forse è che promuovono YouTube, è dato forse anche dal fatto che ormai sono tutti ragazzini chiusi in casa, non hanno più la cerchia di amici con la quale confrontarsi e si confrontano con il monitor. Lei dà una lettura, diciamo, passatista, non giocano più a palla nel cortile della parrocchia. Ma non solo quello, cioè, come la ragazzina prima che diceva mi dà fastidio questo piuttosto che quell'altro, ma le stesse cose ci si diceva in compagnia, ma anche tra i banchi di scuola ci si diceva: ah, guarda, quello ha fatto così, quello sì, ha ma fatto ai miei tempi, scusi, quando diciamo queste cose eravamo 4 sfigati, oggi sono 16 milioni di persone che le condividono, c'è una piccola differenza. Capisce che il ma nemmeno il Presidente della Repubblica, quando fa il discorso di Capodanno, ha tanta gente che lo segue, capisce? Ma certo, ma perché il mezzo amplifica. Se fossimo stati in piazza col megafono, probabilmente a uno che faceva lo scemo, che era simpatico, l'avrebbero seguito migliaia di persone. La contemporaneità questo ci offre e questo noi osserviamo. Fermi un attimo, 800 24 00 24, ci fermiamo un istante per la borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Franco Schipani, Alessandra Fiori. Buongiorno. Tintarella di luna, tintarella con un latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9:30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Melog, cronache meridiane. Tema: i libri degli idoli. Adesso infatti tutti gli idoli, tranne io purtroppo, scrivono dei libri molto spessi, colorati, e i fans li bramano ardentemente. Io volevo comprare i libri di quelli scritti da quelli che lo fanno di mestiere, ma a che serve leggere i libri tipo Nietzsche se poi quello non ha neanche un canale su YouTube e non puoi dirgli se ti saluta o ti segue? Proprio per questo mi sono indirizzato ai miei idoli, che sono tanti e hanno dimostrato che si sanno sempre rinnovare, tipo, due punti, Alberico Yes dice una storia che lui da piccolo era triste e adesso no, anche se poi fa i video dove è triste e dice che lui si sta impegnando, ma non ho capito in che. Le pagine sono scritte 800 24 00 24. Qual è la prova che sia diventato un fenomeno contemporaneo ormai evidente a tutti gli effetti? Che c'è lo youtuber che fa l'imitazione degli youtuber. Chi è questo che ha parlato? Ricordo che abbiamo in studio Carlo Liviano d'Arcangio, che è uno scrittore, ha scritto vari saggi sulla televisione, sulla vita, sullo sport, e oggi sta studiando profondamente il fenomeno degli youtuber. Chi parla è il signor Franz, che entra in questo mondo e capisce che è un mondo che si può tranquillamente parodiare, e lo fa secondo me con grande intelligenza, con grande senso dell'umorismo e con grande capacità. Quindi la parodia dello youtuber certifica e celebra l'esistenza dello youtuber. Esatto. Quando c'è qualcuno che ti fa la parodia, comunque già esisti, se può esistere anche il tuo doppio parodistico. Sempre signor Franz, andiamo a scuola. Lei dice: quando mancano pochi giorni all'inizio della scuola ti rendi conto che l'estate è passata in un attimo. Chissà come mai i mesi di scuola sono sempre più lenti di quelli estivi di divertimento. Di divertimento, punto esclamativo. Vabbè. Stavo morendo di terrore, come sempre quando devo volare, ma ancora una volta ce l'ho fatta ad affrontare il viaggio e la paura di volare per avere un'esperienza bella, faccina. Poi c'è pure il libro del mio idolo Anthony, che lo voleva veramente. Signor Franz, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Ma non sono poi così cretini, onestamente parlano, non è che sono, però parlano un po' meglio. Lei è un po'... Sì, nella vita reale, sì. Lei ha calcato un po' la mano nel fare l'imitazione dello youtuber, la satira sullo youtuber. Ma in realtà sì, perché in quello che faccio, nel format che faccio, l'innocenza di un bambino vuol dire tutto, quindi la chiave è quella, prendo per i fondelli tutti perché sono un bambino e lo posso fare, quindi nessuno mi può dire niente. Lei appartiene alla stessa generazione, diciamo, dei modelli che su cui fa satira? No, No, in realtà no, appartengo a una generazione, alla generazione precedente, in realtà è proprio una generazione che non ha vissuto quello che sta vivendo questa generazione, quindi io ho 28 anni e quindi io non ho vissuto internet come lo vivono i ragazzini di 14-15 anni, quindi loro sono totalmente immersi in questo mondo e hanno questi riferimenti, io non ce li ho mai avuti e non, in realtà non c'erano, non allora c'erano mi faccia questi... capire, signor Franz, dunque... La sua generazione aveva come un fenomeno consimile quello di Ambra e delle ragazze nella Rai? Assolutamente sì. Non c'è un punto in comune. Io già faccio questo mestiere. Andavo al Palatino, al Centro Safa Palatino. C'erano ragazzini che partivano giù dal Colosseo praticamente. Code immense soltanto vedere Ambra, che dicevano le stesse cose. E Boncompagni, questo è stato un talent scout e un prodotto. Ma non avevano internet, quindi rimanevano lì, chiuse in televisione. Assolutamente, non avevano il feedback più che altro, perché se andavi da Ambra, ci andavi da Ambra quando c'era la trasmissione e Ambra passava e la vedevi sul corridoio. Qua hai dei feedback, quindi tu gli scrivi, loro rispondono e vieni coinvolto in maniera totalmente diversa rispetto a quello che erano nella Rai, rispetto a quello comunque che rispetto ai riferimenti di una volta, quindi magari al cantante che ti piaceva o al personaggio pubblico che però non ti dava un feedback che ti danno loro, quindi se loro ti rispondono, se adesso c'è la mania di dire mi saluti, tutti quanti, se vuoi andare a vedere tutti i commenti. Beh, come così, le radio commerciali degli anni 70, il massimo, mi fai la dedica, era la stessa cosa. Esattamente, solo che qua diventa un'ossessione forse preoccupante, perché qui tutti stanno a aspettare che il divo youtuber citi e saluto Caterina che mi chiama da Roma, così esattamente. Bravissimo. Vabbè, i DJ coatti nelle radio di Borgata facciano la stessa cosa. Sì, forse c'aveva meno pubblico il DJ di Borgata. Spiegami un attimo, muovono. Signor Franz, tu che li osservi, perché per imitarli te ne guarderai tanti, dammi delle chiavi di lettura meno scientifiche di quelle che e meno profonde quelle che sta dando Giancarlo Liviano d'Arcangio sul loro successo. Questo non te lo so dire, in realtà sono delle persone normali, dei ragazzi normali che parlano di argomenti normali, che però se vengono pompati dai media, comunque dai social, risultano in questo modo, quindi se un ragazzino di 14 anni sente un altro ragazzino di 14 anni che sta dentro una scatola e dice quello che lui si vuole sentire dire, ovvero i genitori sono tutti cattivi, i professori fanno schifo, la scuola mi opprime... cose che vanno avanti da centinaia di anni negli adolescenti, è chiaro che loro ci si impersonano in maniera totale e quindi improvvisamente quello diventa un personaggio di riferimento. Resta un attimo, resta in ascolto, Giancarlo Liviano d'Arcangelo. Quanto in questo però conta poi il meccanismo commerciale? Cioè c'è un sistema di agenti che classificano, identificano, fanno un casting di quello che funziona di più, ci investono, perché quando vanno a fare le serate fanno metà e metà loro e la gente, qualcosa del genere. Le attrezzature poi hanno... Io ho visto comprare le GoPro in un negozio... Andava la ragazzina che sceglieva i cavalletti, i faretti per farsi il set più professionale possibile. Quanto poi l'investimento del mercato conta nella scelta di chi emerge tra gli youtuber? Beh, il mercato è sicuramente l'eminenza grigia, nel senso che si è capito che non è più possibile ormai, e lo sarà sempre meno in futuro, pubblicizzare i prodotti attraverso una pubblicità diretta, cioè quella classica, quella che siamo abituati a vedere. Bisogna inserirli in dei flussi completamente diversi che sono poi familiari a tutta una classe di consumatori che oggi vengono considerati quelli, i consumatori più affidabili, i consumatori forti. È quello che una volta forti. Era lo zecchino d'oro, poi diventano famosi, facciano i caroselli. Esatto. Poi faceva il carosello, ti vendeva le merendine. E quindi infatti si vede, se si vedono i video, si vede che molto spesso un prodotto, una scatola di patatine... Ah, product placement. È un product placement di nuova generazione, perché prima lo si faceva nei film molto spesso, all'interno di narrazioni. Prima però col pacchetto del Marlboro che in primo piano, la bottiglia del GMB, quelli erano i prodotti. Esattamente. Oggi cosa fanno vedere? Adesso invece cambia soltanto il tipo di narrazione. Come abbiamo detto, la narrazione è totalmente tautologica ed è una narrazione che volge proprio all'identificazione dell'utente con la vita sua reale che merita finalmente di essere rappresentata da una quindi piazza. Prendono soldini per far vedere lo smartphone, sì, di una marca piuttosto che un'altra, la maglietta, cominciano ad essere sponsorizzati, sì, non c'è niente di male però. No, assolutamente, senza dare giudizi di valore, ma tracciando una piccola storia di quello che era rappresentabile e poteva interessare alla comunità. Sì, ricordo, ai nostri tempi potevano essere attori, cantanti, calciatori, poi c'è stato il cuscinetto di Ambra e oggi invece cosa fu Giusva Fioravanti negli anni 70 con la famiglia Benvenuti, poi divenne un terrorista nero, ma era l'idolo di generazioni di... Siccome ha fatto, faceva questo famoso sceneggiato televisivo con Enrico Maria Salerno, era diventato testimonial non so di quante cose, bambino carino, angelico, col caschetto un po' arguto. Ecco, oggi gli youtuber, spero non per loro, diventeranno i futuri Giusva Fioravanti. Sì, se un tempo l'eccezionalità era il valore aggiunto da condividere, da far diventare pubblico, adesso invece è assolutamente la normalità. Ma questa è la chiave, è la confezione e la dignificazione della normalità come valore assoluto. Marco, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Una puntata interessante questa, e volevo esprimere una mia opinione riguardo al fatto che ritengo che YouTube, come tutte le cose che c'è nell'internet, non sia solo frivolezza. Mi spiego, seguo alcuni canali, seguo anche le frivolezze, non sono un santo, ci mancherebbe, però seguo alcuni canali, come per esempio mi viene in mente Link for Universe, dove uno studente dell'Università di Pisa spiega alcuni concetti dello spazio e l'astronomia in maniera chiara, non con quel tono accademico che magari... Sì, poi non fa 16 milioni di contatti, questa è la differenza. Esatto, e questa è la differenza, che probabilmente è diventato anche quello un rifugio della frivolezza, un rifugio della banalità. Marco, se io fossi il signor YouTube, direi il vero uso per il mio prodotto è quello che fa il ragazzo YouTuber, quello mi porta successo, mi porta profitto. Gli altri ne fanno un uso minimale, accessorio. Anch'io metto su YouTube i video dei convegni che facciamo sul dopo di noi, ma lo guarderanno 15 persone. E questi, esatto, con 16 milioni di persone guardano la mattina: oggi mi sono lavato i denti, ho usato il dentifricio con le strisce. E questo è il fenomeno da osservare. Giacomo. Buonasera, allora io ho 24 anni, quindi in realtà il fenomeno YouTuber quando avevo 15 anni iniziava a prendere piede. Ricordo quando avevo proprio la passione di vedere questi primi personaggi che venivano fuori, ricordo al tempo Farenz, che facevano le recensioni dei videogiochi e che ci sorprendevano con questo modo nuovo di fare. E dopo, come tante altre persone della mia età, ci ho provato, ma mi sono ritrovato in una situazione in cui ci sono due tipi di persone che fanno gli YouTuber. Quelli che pensano di avere qualcosa di importante da dire, che sono convinti che la loro opinione abbia bisogno di essere sentita da tutti quanti. Che però sono i più sfigati. Non li esattamente, e nei quali rientro pienamente, nel senso, essere convinti di avere un'opinione che esula, che non si è mai vista, copiando però qualcun altro, e che sono quelli che appunto fanno quelle 15-16 visualizzazioni che dopo non fanno nulla, e chi invece ci si è buttato comunque facendone un business, facendone molti, parecchi soldi, e che adesso l'ha trasformato in un lavoro vero e proprio. Quindi dovremmo concludere prima della pausa che adesso andremo a proporre all'ascolto, che in realtà gli strumenti di condivisione 2.0 sono stati fatti per dare esistenza, dignità, prevalenza al banale quotidiano. Non sono luoghi in cui si scova, si certifica e si dà risalto all'eccellenza, ma sono posti che hanno dato dignità di iperesistenza a ciò che in realtà era parte del nostro banale quotidiano. Tra un istante. Melog, cronache meridiane. Ci sono storie che non vengono mai raccontate. Storie talmente agghiaccianti che rimangono sepolte nel tempo. Quello che sto per raccontarvi oggi è qualcosa di... Ma che cazzo stai facendo, cretino? Ma vai a lavorare! No, sto facendo il video! Ma vai, non so, va bene. Piccoli brividi. La serie di libri che ha segnato un'intera generazione degli anni 90. Tra i pupazzi di G.I. Joe e le videocassette della Disney, ogni bambino della mia scuola aveva almeno uno di questi romanzi in casa. E tra l'altro ce li scambiavamo come figurine. Ammettiamolo, decidevamo quale comprare solo ed esclusivamente in base alla bellezza della copertina. Ma prima o poi te ne ritrovavi a decine di centinaia sparpagliati in casa. Questo perché? Questo è Yotobi. Sì, erano veloci da leggere. Parla di manga, parla di cultura giapponese a 1 milione di persone che l'ascoltano tutti i giorni. Fisse sono sempre quelle. Ascoltano, ma soprattutto interagiscono. quindi molto di più, ma eccezionalmente di più di Bruno Vespa, che viene considerato uno la terza camera d'Italia, ma nemmeno la metà della metà, e poi sono incerti, tu ce l'hai lì fissi tutti i giorni, ognuno risponde e uno partecipa. Allora, Giancarlo Viviano d'Arcangio, di chi parliamo adesso? Adesso parliamo di un'interpretazione, come dicevamo prima, derivativa dei manga giapponesi, che secondo me hanno sono una chiave molto importante per capire questo fenomeno, perché se noi osserviamo la prossemica, la grande espressività degli youtuber, e quindi il modo che hanno di parlare, il modo che hanno di giocare con l'espressione del volto, sono veramente molto simili a quelle dei cartoni animati giapponesi degli anni 80. Se qualcuno ricorda cartoni animati che ebbero grande successo, che fanno parte della mia generazione, come ad esempio la Mu o Gigi la Trotta, tutte le accelerazioni grafiche e le animazioni di questi cartoni animati erano basate sull'espressività sia verbale che della prossemica dei volti e dei gesti. Sono dei manga viventi. Sono dei manga viventi. Ecco, quando ci chiediamo per quale motivo su tanti ragazzi, milioni di ragazzi che provano a fare gli youtuber, soltanto 10 poi diventano di successo, la risposta è proprio questo: cioè chi è più modello degli altri. Ad esempio, abbiamo visto adesso il libro di Greta Menchi. Greta Menchi è un emoticon vivente, il suo volto si presta perfettamente a rappresentare appunto tutte le espressioni in maniera semplificata, diretta, immediata dell'animo umano, e appunto ricorda tantissimo. Ma infatti il suo libro, il mio libro sbagliato di Fabbri, è un libro in realtà, per modo di dire, ogni pagina è un lavoro grafico in cui il personaggio in carne ed ossa diventa cartone animato, diventa personaggio di fumetti, ha tutta una serie di interventi grafici che sono quelli tipici dei social più da ragazzini, capito, più moderni, e ti appare il fumetto, il vomito che esce. Esatto, anche perché chi è nato dopo il 95 fatica a entrare in questo mondo, perché naturalmente lo trova completamente azzerato di contenuti, no? Una semplificazione inaccettabile, un elementare inaccettabile. Infatti cosa succede? Che la fascia larghissima di utenti va verso l'età più basse, cioè inizia dagli 8-9 anni e si sposta fino a poi. Hai detto qualcosa di sacrosanto, si vede che stai studiando. Walter, buongiorno. Quanti anni ha tuo figlio? No, buongiorno. Difatti volevo intervenire per dire di questa storia di Fabi J. Mio figlio ha 9 anni, io abito vicino al mare, gli dico: dai, andiamo al mare, andiamo a divertirci. Andiamo a divertirci. Mi dice: sì, però posso vedere dopo un'oretta di Fabi J. Al che alla sera ho cominciato a guardare anch'io, e lui spiega i giochi in un modo strano, ma cioè, sinceramente non lo so come mai, ma è incantato da sto Fabi J. Quindi suo figlio ha 9 anni, già diciamo non ci sarà mai televisione che tenga, ma nemmeno no, prodotto zero. Alternativo, non guarderà i cartoni animati, ma guarderà Fabi J. Sì, ma sta cosa lo cresciamo con il gioco, gli divertimenti insieme, cose. Tutto sommato, vede al lato positivo, io mi sono svenato per comprare prima VHS, poi DVD della Disney, i miei figli, lei almeno su questo, o le console di videogame, cioè diciamo che sono spese. Lei basta che c'ha una connessione internet, lo mette lì, ci pensa Fabi J. Volevo dire appunto che sto Fabi J, che io non conosco, comunque è una potenza, perché sento anche gli altri bambini. Mia figlia nell'ambito dello spettacolo, nel personaggio sono abbastanza. Vabbè, è anche il bastone da vecchiaia dei suoi genitori, per avere un ragazzino ancora adolescente, minorenne, che in teoria potrebbe mantenere la famiglia, ma nemmeno ai tempi del lavoro nero dell'infanzia sfruttata accadeva. Signor Franz, cosa ne pensa? Ma in realtà sì, è gente che fa numeri, e quindi gente che attira brand, e quindi che attira soldi inevitabilmente. Sì, tutto gira intorno a loro. Fabi J è cresciuto adesso. Quanti anni ha? Adesso dovrebbe avere intorno ai 21-22 anni forse. Quindi è già avanti nel tempo. Sì, però continua a fare quel format, perché chiaramente è un format che funziona. Ecco, ma come te lo spieghi, signor Franz? C'ha 21 non anni. Non ne ho idea. Non può più continuare a fare ragazzino di 13 anni, che piaccia a 9 anni. Esatto. Ma qui, scusa, quindi... Aspetta un attimo, Giancarlo Viviano d'Arcangio, Fabi J sarà come Pippo Baudo, che a 150 anni ancora vorrà fare televisione, lui vorrà ancora fare YouTube. Questo è uno scenario interessante da delineare, perché è chiaro che essendo trasformati dal mio punto di vista in oggetti di consumo, come tutti gli oggetti di consumo, sono soggetti a una rapida sostituzione. E invece no, vogliono rimanere. Rimanere non sarà molto facile, per questo chissà, adesso per fare una battuta è probabile che ci troviamo di fronte a dei futuri clienti di farmaci antidepressivi, insomma. Però guarda che i 20 anni di Fabi J equivalgono agli 85 anni dei grandi conduttori della TV italiana. Come 9 dei molti utenti equivalgono ai 18 di Fabij quando ha cominciato e via di certo, si tratta di questo. Signor Franz, quali sono, proprio in conclusione, gli elementi che tu hai individuato di maggior successo di questi ragazzi? È la pubblicità che gli fanno. Nel senso che tu come vendi uno youtuber, è chiaro che poi il... Ah, quindi è il mainstream che gli dà vitalità. Senza la televisione, i giornali, gli agenti, la pubblicità rimarrebbero sì, nel giretto loro. Decisamente, perché comunque li pompano da dietro. È chiaro che se lo fai partecipare a 1.020... Beh, quando ho visto una pagina del Corriere della Sera con Giulio Giorello, un filosofo della scienza ad altissimo livello, che parlava con Sofia Viscardi come se parlasse con il fantasma di Margherita Hack, un pochino ci ho pensato in effetti. Grazie a Giancarlo Iviano d'Arcangelo, grazie al signor Franz, abbiamo lambito soltanto un fenomeno di cui sicuramente torneremo a parlare, perché d'ora in poi ne parleranno tutti.